giorno in velocità. E si sa che quando sei piccolo è un'eternità. La spontaneità, l'innocenza e l'ingenuità sono tutte cose che fanno parte di quell'età. Senza boh e senza ma, ti trovi buttato tra situazioni del cazzo che ti cambiano identità. L'anima cerca più in là nuove verità, con semplicità troverà la risposta alle mille domande che fa la vita che abita qua. A chi vive fottuto nella mediocrità, chi risposte non ne ha, chi si ribella e non ci sta, chi se ne va e non giocherà a fare la guerra con la società. Anche dentro alla merda, in mezzo alle difficoltà, c'è una cosa che ti salva il culo, è la tua volontà. Seguila, ti indica le tue vere qualità, da fiducia in se stessi in questo schifo di realtà. Io mi chiamo L.U.C.A. Cioccola. 7 anni fa ho fatto un patto di fedeltà, l'ho fatto per portarti novità, originalità, per zittire chi si crede sua maestà.